Allora, il contatto è già avvenuto sia telefonicamente che con un format trascorso in scena insieme a Gabriele Via. Poi nuovamente a Bologna, è l'unica notizia che ammetto per onestà e sincerità, anche per rispetto, è l'unica notizia che ho ricevuto. Ciao William, venerdì prossimo suono a Bologna. Quindi bene, se vieni mi fa piacere, appunto grazie dell'invito. L'invito lo estendiamo anche ascoltatrici e ascoltatori. Lei è Gina Battista, che ringrazio. Gina, ci sei? Buongiorno. Sì, ciao a tutti, buongiorno, grazie a te. Allora, ti abbiamo conosciuto in corredo, anzi da protagonista con Gabriele Via per un live in studio qua, addirittura con queste sonorità che vanno dal fado all'aspetto cantautorale, all'interpretazione che dà suggestione, motivo ovviamente anche di spettacolo, teatro e musica. Innanzitutto, dove sarai questa sera, così diamo un po'. Allora, questa sera saremo al Microbo a Bologna, che è questo posto in via Remorsella 22/2, in centro, vicino via Santo Stefano, e saremo in una formazione nuova, nel senso che ci sarà sempre il mio chitarrista, però ci sarà anche la batteria Red Rossi, che insomma chi è un po' dell'ambiente conosce bene. E quindi siamo molto insomma contenti di fare questa serata con una nuova formazione. Sempre bello quando si fanno cose nuove con nuovi musicisti. La formazione, appunto, e le sonorità si attengono a quello che avevi anticipato in radio nella puntata in cui ci siamo conosciuti? Sì, le sonorità sono quelle, con l'aggiunta ovviamente di soprattutto di brani del repertorio brasiliano, di cui io e Gabriele siamo molto appassionati, e quindi così, e poi andremo anche chiaramente in Spagna, Argentina, Capo Verde, perché comunque la passione poi si estende in generale alla musica latina. Sì, infatti. E quindi il repertorio, il bello diciamo dei nostri concerti è che spaziamo molto fra i generi. E infatti su quello che mi sono soffermato, che è il fado o anche la musica di Capoverde, se vogliamo, non è semplicemente, se semplicemente si può definire, anche perché è una musica fantastica, è tutto quello che riguarda un universo più esteso dove l'America Latina ne diventa protagonista. Ma tu come ti sei appassionata a queste sonorità, Gina? Io mi sono appassionata, diciamo, totalmente a caso, perché io ho iniziato a suonare percussioni ormai più di 10 anni fa, percussioni africane e brasiliane, ma in realtà ero andata da questo insegnante per imparare musica africana, e lui mi disse: guarda che facciamo anche percussioni brasiliane. Io ho detto: boh, ok, proviamo. E in realtà poi da lì è stato un colpo di fulmine, ed è una cosa che poi non ho più abbandonato, e ho sentito sempre molto mia, e quindi è partito tutto da lì. Quindi sì, poi dalle percussioni mi sono spostata poi sul canto, sulla chitarra e via dicendo. Insomma, non mi sono ancora fermata, ma penso che non mi fermerò mai, perché la musica è sempre una continua scoperta. Bene, scusa se ti ho fatto fare il comunicato stampa a te in diretta, però non avevo notizie precise. No, capito? No, certo, no, beh, figurati. Quindi ribadiamo. Siamo in famiglia qua, dai. Sì, poi questa è la vera diretta, no? Allora, via Remorsella è una letterale di via Santo Stefano, quindi una bella passeggiata anche in centro. Microbo è il locale. Ora? Alle ore? Gina, ci sei? Ah, alle ore 20. Ah, alle ore 20. Guarda, così non facciamo neanche tardi, to. No, esatto, alle ore 20. Apertura porte dalle 19:30 e poi dalle 20, insomma, si può iniziare. Ascolta, tu hai portato, mi hai inviato un paio di brani, facciamo uno stacco musicale, poi torniamo in diretta, Ok. Per la nostra conversazione. Gina Battista, a tra poco. passione, come ben sapete, per la musica brasiliana, beh, non è solo incentrata sulla bossa nova che spesso trovate nelle playlist del Breakfast Club, ovviamente si estende e incontra anche questo suono, un suono che ho conosciuto particolarmente dal vivo in un live set in studio con Gina Battista, anzi che ha arricchito, diciamo così, come aggiunta a quello che potrò ascoltare e potremo ascoltare. In queste interpretazioni troviamo, oltre che una grande intensità, un motivo di incontro, un talento naturale. Gli applausi arrivano a corredo delle mie parole. Quindi Gina, ci sei? Sei ancora? Sì, ci sono, sono qui. Bene. Va appunto a portare l'emozione e nello stesso tempo la grande capacità e la qualità musicale. Beh, intanto, dopo aver ascoltato questo brano, poi chiuderemo con un altro brano ripreso da un tuo live. Sono arrivati anche gli applausi. Dove eri, ti ricordi? Ero al Teatro Comunale di Marzabotto, e questo era un concerto che abbiamo fatto l'anno scorso. Con la stessa molto bello formazione. Perché io amo suonare in teatro. E infatti sei nella rubrica in scena, tra l'altro, guarda, per cui l'abbinamento con il teatro c'è indubbiamente. Allora, detto questo, ribadiamo chi sono i musicisti che ti affiancheranno. Sì, allora ci sarà Gabriele Gurrieri alla chitarra e Roberto Red Rossi alla batteria. Bene, aggiungo anche che tra tutte le sonorità che abbiamo portato, io aggiungerei anche un sapore gitano, un sapore moresco all'interno di questo, perché con questo spettro di colore, secondo me, è giusto anche percepire nella maniera più completa. Ottimo lavoro per chi riesce a comunicare tutto ciò. Bene, noi direi che possiamo concludere la nostra conversazione ribadendo che al Microbo di Viale Morsella alle ore 20 per quanto riguarda questa sera. La formazione ha un nome? No, la formazione non ha un nome, questa è una scelta, diciamo. Okay. È una scelta perché mi piace nominare i musicisti, diciamo così. Certo, ognuno con la sua identità. Anche perché la nostra formazione, a parte me e Gabriele, poi cambia, quindi ogni volta in realtà specifico la presenza dei musicisti. Perfetto, io ti ringrazio tantissimo. Progetti per quanto riguarda, magari, chissà, qualche lavoro, sai che io amo il supporto fisico, progetti per dischi, pubblicazioni, ce ne sono? Allora, al momento ancora no, ma in futuro sicuramente ci sarà qualcosa. Te lo farò sapere. Esatto, brava. Te lo farò sapere. Io di solito, cioè, non mi appartiene proprio questa definizione, anche perché retribuisco sempre e comunque e non chiedo mai accrediti. Questo è poi, ovviamente, se c'è l'invito così esplicito, è ovvio che. Però sono un collezionista di dischi in generale, ma un collezionista soprattutto di quelli ultimamente che trovo durante i concerti, per cui aspetto anche un vostro lavoro per arricchire il mobilone dei CD. Ma Gina, ti saluto con una domanda, anche perché vedo un certo physique du rôle. Tu hai origini da Sud America, insomma, oppure no, è solo un physique du rôle? Allora, io in realtà sono pugliese. Perfetto. Non ho origini. L'unica informazione che mi è stata data dai miei genitori, ed è l'unica che mi dà un certo tipo di spiegazione, è che sono stata concepita in Portogallo, quindi Vedi? Questo potrebbe aver influito su qualcosa. Il physique du rôle non è casuale. Grazie a te, ciao. Al Microbo Viale Morsella con Gina Battista. Grazie, ciao Gina. Grazie, ciao. vedete che delle attinenze ci sono con queste sonorità per Gina Battista, che conclude la nostra rubrica In Scena. Sono le 8:46 minuti, abbiamo ascoltato due brani ben diversi, tra l'altro, che danno ampio catalogo dell'ispirazione che potrete ascoltare questa sera alle ore 20. Via Remorsella, laterale di via Santo Stefano, quindi una bella passeggiata sotto i nostri portici in centro, il locale Il Microbo. Quindi abbiamo terminato la rubrica In Scena, stiamo terminando il Breakfast Club, anche qui scattano gli applausi, vedete, ma non sono per me, sono per voi in questo caso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento con il Breakfast Club per lunedì puntuali alle ore 7. Ho messo un disco di Tim Berne, così avremo modo anche di dare presentazione a Jazz Live, che sarà dalle 11:30 alle 12:30, e aggiungo la segna stampa dalle 9:30. Intanto Edipo Enciclopedico e Liberi Dentro. Un caloroso abbraccio, un buon weekend alle super mattiniere e i super mattinieri di Radio Città Fujiko, primo weekend completo di primavera 2024, e vi saluto con un buon ascolto su Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Piana.